Buongiorno Lara Comi, vorrei fidanzarmi con te perché sono un bell'uomo, 50 anni, assicuratore, chiamo da Firenze, ho un'ottima posizione finanziaria, economica e patrimoniale e sei una donna bellissima, sono un uomo bellissimo e l'impegno che mi prendo è talmente importante che vorrei sapere cosa è possibile fare.